English Bit di Giulia Crivelli. Scary. North Korea has shown us its new missile and it's scarier than we thought. La Corea del Nord ci ha mostrato il suo nuovo missile e fa più paura di quanto pensassimo. Il Washington Post titolava così uno dei molti aggiornamenti sulle mosse del dittatore Kim Jong-un degli ultimi giorni. La parola che ci interessa è scarier, comparativo di scary, aggettivo che significa pauroso, qualcosa che mette paura. Il superlativo è scariest regolare. It was a really scary moment. In quel momento ebbi davvero paura, diremmo in italiano. That horror movie was scarier than I thought. Quel film dell'orrore mi spaventò più di quanto mi aspettassi. You told me the scariest story I had ever heard. Mi raccontasti la storia più terrificante che io avessi mai sentito. Poi c'è il verbo regolare. To scare, scared, scared. It scared me to think I was alone in the building. Mi spaventai all'idea di essere sola nell'edificio. Importanti i phrasal verbs. They managed to scare the bears away. Riuscirono a far scappare gli orsi. To scare away. Rising prices are scaring customers off. I prezzi sempre più cari stanno allontanando i clienti. To scare off. Local businesses were scared into paying protection money. Le piccole aziende locali furono spinte, to scared into, con le minacce, a pagare il pizzo protection money. Esiste anche il sostantivo, naturalmente. You gave me a scare. Mi hai fatto venire uno spavento. Scarecrow, letteralmente il corvo che provoca paura, è quello che noi chiamiamo spaventapasseri. Come dimenticare la bellissima canzone di John Cougar Mellencamp del 1985, Rain on the Scarecrow? Ma torniamo al titolo del Washington Post e ai comparativi. Quando un aggettivo è troppo a lungo, in inglese non si aggiunge il suffisso, ma si antepone l'avverbio more. My cat is more dangerous than my dog. Il mio gatto è più pericoloso del mio cane. He is the most handsome actor on the planet. È il più bel attore del pianeta. Ultima notazione sul verbo to show, irregolare. To show, showed, shown. Si può usare sia informativa che passiva. This shows how people are influenced by TV. Questo dimostra come le persone siano influenzate dalla televisione. The clock showed midnight. L'orologio segnava mezzanotte. The movie is being shown now. Il film è arrivato nelle sale, potremmo tradurre.